1, 2, 3. Succedendo in questo periodo che non ti stai più sentendo? Un giorno, neanche. Mi sei di nuovo bruciato quell'alimentatore, che cessi che sono. Come ti sei bruciato? L'avevi già registrato? Capo, l'avevo mandato su, ma l'avevano restituito insieme a tutta una serie di componentistica, bruciato di nuovo. Sì, vai tranquillo, More, bomba, che More. Vai tranquillo, Drobe, che ti succede come è successo a me. Il mio almeno non è partito del tutto, devo aspettare, accendo, poi lo lascio resettare di nuovo e poi lo riaccendo e funziona tutta la sera. Però è sempre quella cosa lì, se tu vuoi accendere immediatamente non puoi farlo, per dire. Non puoi neanche dire che è un prodotto Proxel, perché esce sotto tutta una serie di marche diverse, capito? O c'è la scritta Proxel. Il mio c'è la scritta Proxel, no, ma quello che è per la Proxel 6045 lo trovi sotto marche diverse, con una sigla diversa ed è uguale del coso, perché la Proxel non è una fabbrica, capito? Ma no, fa microfoni, fa alimentatori, fa tanti aggeggi per baracchini, è avuta che è una fabbrica. No, guarda, te lo posso assicurare, in breve non è una fabbrica, è una... è un'impresa che fa, infatti è un SRL, una cosa che, cioè, se dovesse fare tutte queste cose sarebbe un SPA quantomeno. Comunque fa queste cose qua, cioè non fa queste cose qua, ma acquista in grandi stock e dopodiché ci mette il marchio e fa la cosa, come si dice, quando è in garanzia, fa la piccola, vabbè, fa la tramite, dai, diciamo così. Che la tramite, cioè te la aggiustano loro direttamente. Quando è in garanzia fa l'assistenza, ecco. Ah. Allora, comunque, è uscita una partita difettosa e non è venuta di qua. Secondo me è proprio fatto male, è progettato male l'alimentatore, capito? Pagata. Sì, c'è qualcosa che, qualche componente che non va. I forum dicono che sono quei due, non so se l'hai mai aperto dentro. No, negativo. Una volta solo quando si era bruciato del tutto l'ha aperto un'altra persona, ma io no, io personalmente no. Ci sono i due condensatori da 200 volt che sembra che a un certo punto eroghino di più e quindi sballano i finali, capito? KK. Un testamento, scusa che non c'è un secondo. Mi hanno mandato un testamento. Mandato un testamento, cioè? Un'email che è lunga 3 km. Vabbè dai, leggitela, ci sentiamo dopo che vado a fare carica, eh? Vai, ci sentiamo, va. Sono qua. Vai. Break 10. Avanti. Capa, buonasera, aspettiamo fa bravo. Mi puoi dire come sto scendo solita la procedura contro l'apparati? Dopo ogni temporale si deve fare. Va. 43210 prova prova. Già vai bene, dai, come al solito. Ok, anche come diceva quello, anche questa volta ce la siamo capati. Lo segnale se non vedi la radio è Kimbos. Sì, tutto normale. A parte se sto mal di gola. Però il microfono è normale. Sì, speriamo che sia finita per oggi la pioggia, fulmine, eccetera, che ci lascia un po' in pace. Poi io ieri notte non ho dormito nulla, riprovo l'invitrica, boh, una cosa allucinante. Riprovo l'invitrica, tutto come dicevano i puni, una cosa allucinante, infatti ho staccato tutto, ho staccato sia l'elettricità che l'antenna. Perché non sono stata aperta, quando ho mandato la sì, succede il guaio, capito? Ok, l'altro spazzato. Aspetta che passo sull'altro, va. Intanto che ci sono di prodotto un po' tutti. Oh, uno, due, tre. Sta andando? Via. Ah. Questo è un po' più silenzioso forse. Il microfono è identico, stesso modello, cambia solo l'apparato. Ho capito. Ah, va bene. Anche l'antenna la stessa, quindi ok. Anche qua tutto bene, quello grande non lo provo, speriamo la fortuna perché quello là è staccato proprio. Perché se è staccato non si capisco più una mazza di questo posto, staccati, staccati e cose. Sì, ok. Funziona. Va bene, dai. Però adesso siamo a cavallo, diciamo questo. Fagato. Allora io devo lasciare che mi hanno chiamato qua, ci sentiamo dopo casomai. Mi ha fatto piacere sentirti, ma devo andare. Ci sentiamo fra una mezz'oretta. Ciao, grazie per il controllo, buona cena, buon pranzo, buon tutto. Ciao. Se vuoi te lo faccio fare, ti faccio modificare la voce. Sì, cioè si può fare. Aspetta, te lo dico io quando parlare, poi te lo faccio sentire modificata. Parla adesso. Room, la voce calda della frequenza. Cambio, cambio. Ora riparla che non ha registrato bene, aspetta. Che lui stava mettendo nel microfono, invece doveva mettere l'apparato. Dai, mettila Marco. Proprava adesso, va. Sempre la voce calda della frequenza. Cambio, cambio. Te la fa sentire modificata. Era troppo bassa, aspetta, rifallo, aspetta un attimino, te lo dico io quando ho fatto. Vai, vai. 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, speriamo sia la volta buona questa. Ciao Gianni. Adesso si sente. Cos'è, Paperino? Se può modificare tanti muri con la PlayStation. Ma come... Allora, anche questo. Aspetta. Robotica, ma come si chiama il programma? Non te ne sei dimenticato? Il sound DS. Pagava. Bellino, eh? Il DSi è quello che piace ai bambini, dai, uno l'aveva aperto, se l'aveva dimenticata a Città Mercato, l'ho attaccato in 2 secondi, siamo ritrovati, non ce l'ha più. Lo modifica anche in diretta. In diretta tu fai la voce e lui te lo modifica, sì, se vuole sì, però prima ti deve registrare, no, in diretta così non fa, prima ti deve registrare e poi te lo elabora. Capito, devi sempre prima registrarlo. Qui ci possono verificare schiva, video, ci mette la scheda DCD dell'interno e puoi modificare tutto, video, eccetera, eccetera. Aspetta, faccio una chiamata a Fabrizio. Attenzione Fabrizio, chirigato, se sei in linea e in ascolto, cambio. Attaivo. E allora, com'è andato il QSO serale? Ah, era un po', diciamo, sì, all'inizio bene, poi si è un po' sperduto, una chiusa, l'altra chiusa, quindi ho chiuso anche. Io, come stavo entrando, ma ti parlo delle 5 del pomeriggio, ho fatto due chiamate, pum, mi si è bruciata questa cosa ed ero tutta la sera che cercavo di rimetterlo in sesto, capito? Perché mi avevano mandato anche i componenti dopo la prima volta. Ma credo che si sia bruciato a seguito di un'inversione di polarità. Sicuramente è difettoso, è la parte difettosa che ti ho detto io. E infatti ho detto non lo prendere, invece tu l'avevi già ordinato, mi pare, quando te l'ho detto io. Ma il tuo è uguale, 60-45. 60-55. Il mio è il 45. Quindi capito, sarebbe dovuto quantomeno andare meglio, perché dice che il 55 era sovradimensionato. Il tuo eroga 50 watt, 50 ampere, scusa. Sì. Questo ne eroga 45. Vabbè, ma erano tutti i gatti buci mai. Ma sì, non è... ti hanno progettati male, secondo me. E anche la componentistica deve essere un po' la tredile. Ma io secondo me ho sbagliato qualche cosa, qualche componente, che magari diciamo arrangiandolo si può mettere a posto. Sono parecchi forum che parlano di questo. Cioè dovresti cambiare, se non mi ricordo, se il coso, i condensatori o cos'altro, boh. Adesso lo vedo un attimino, dai. Che una bella fregatura, loro ci dovrebbero ritornare i soldi, 135 euro come l'ho pagato. No, lasciato a 100, perché io stavo ordinando quello inferiore, mi sembra che era il 60-40 o 60-35, non mi ricordo, dice che non ce l'avevo, allora mi ha detto guardi, glielo do allo stesso prezzo, l'ultimo ce l'ho in vetrina, glielo do allo stesso prezzo di quello inferiore. E adesso ti faccio sentire la tua registrazione per vedere come sei uscito. Sembra un po' però un po' compresso o no? Ah, l'effetto che fa trasmettendo dall'interno al baracchino. Ma no, si sente un bel apparecchio quello lì. Nintendo, io che cosa c'ho? Ma scusa, non mi hai detto PlayStation, Nintendo o PlayStation? Nintendo, vabbè, ho sbagliato poco, ho detto PlayStation, forse sei Nintendo. Nintendo DS. Nintendo DS è quella piccolina. E quello piccolino portatile. Io ho la Nintendo Wii, qua di fronte. Ma che tu ci giochi? No, è bellina, dai, fare esercizio va benissimo. Ha pagato. E Marco si diverte a gridare, a fare, a mettere voci, fa finta di essere incazzato e poi lo camuffa. Sono dei giochi tipo pugilato, queste cose qua che fai anche esercizio fisico. C'è anche uno strumento che si chiama balance board che serve proprio per fare yoga, queste cose. E quello che si attacca al televisore, così. A Roger. E c'è mia nipote pure. Abbiamo fatto a casa di mia nipote che c'era. Ma c'è bellino quello lì. Quello lì ti mette a giocare a tennis e qua là, e ti fa muovere. No, è bello, bello. Vabbè, non c'è nessun altro in ruota. Sì, da vedere. Quanto l'ha pagato Grodd, ha detto mio figlio. Quello che 59 in offerta con i giochi, con due giochi. però se lo copri lo puoi comprare anche di seconda mano, anche se sono dei ladri, perché se lo ritirano a 40, se tu vai, se io sono ad azzardo mi danno 50 euro e poi se lo rivendono a 100 senza toccarlo neanche. Capito, quello è un buon prezzo, non è, quello è un buon prezzo davvero. Però a chi fottono è quello che la sta vendendo, capito? E giochi quanto costa un bel? Un bel, secondo me infatti conviene craccarlo, dopodiché prendere i giochi pirattati. Te è fatto così? Però perché era in garanzia, volevo tenerla almeno il primo anno in garanzia, in modo tale da vedere se funzionava o meno, capito? Capano, uno che abbiamo fatto noi così, abbiamo pirattato così, non è andato bene, una PlayStation. No, la PlayStation era facile da craccare, io avevo bastato mettermi un integrato e andava e prendeva tutto. E la nostra non è andata bene, non è andata a buon fine, abbiamo preso un paio di giochi, ha giocato un paio di volte e poi non ha funzionato più. Dalla 1, la 2, la 3? 2. Cazzo, quello era un po' un problema. Scusami un attimino che c'è una bassa, un attimo. Cosa stai? Cucchi, adesso. Poi c'è un telefono. Tra l'altro cari, ci sta disputando anche uno. Santiago no. E io. Allora sei 5. Non con colpo al piano. Scendo. Dite, ok. Ehi, tanto è importante, mi stanno mettendo la partita. Se non se ne ha fottuto la partita. Ecco. Yeah. Ti sei messo quel portatile con la scritta mandoci che c'è tu, quello che si stacca la parte di sotto. Perché non ti hai lasciato l'apparato in macchina, scusa? Però c'è che domani venga a farti visita, Alessandro, non lo so se ce la faccio, però c'è che venga a farti visita. Voglio dargli a ribetto. Palessa, non c'è problema. Dove sei tu? Paga. Ma se ti fermi sulla strada nuova lì, dove sono i parcheggi lì, ti ascolto bene. Poi sta arrivando basso adesso. E da lì non ti sento più bene, là. Vieni da casa, dai, Alessa, ci sentiamo meglio da lì. Anni. Dimmi. Telefonata lunga, rottura di palle. Cava cava, che ore sono? Sei super gettonato. E non esistono più quelle tariffe dove se ti telefono ti ricaricano, perché sicuramente non avrei pagato bolletta io. Anche tu lo fai. Perché esiste ancora? Non l'ho mai fatto. Tu immaginati che prima qualche furbone metteva degli articoli sul giornale dove tipo giornali gratuiti, dove in breve ti vendeva le cose a bassissimo costo, tu lo chiamavi a questo numero e Morale ti rispondeva la segreteria, che però faceva, aveva come rumore il rumore libero del telefono, quindi tu pensavi di che lui non tessere, che fosse il telefono che stava ancora squillando, invece era già la segreteria inserita e quindi gli stavi già accreditando soldi. Tutte le trova. Questo morale bastavano un centinaio di telefonate al giorno e lui poteva andare avanti per una settimana, perché la segreteria durava tipo 2 minuti. Ma mi ricaricavo un'amica che era un chiacchierone, voleva sempre parlare, 3 ore al telefono, perché mi sono messo con quella tariffa, mi ricaricava di lusso. Che tariffa c'hai? Adesso c'ho quella, praticamente io ho l'abbonamento, là. C'ho l'abbonamento e pago 20 euro per tutto il mese e posso fare le telefonate a tutti i cellulari che voglio, a tutte le compagnie eccetera eccetera, sempre 20 euro pago, però non ne posso fare più di 500 ore. 100 ore mi sembra strano, 500 minuti? No, non 500 minuti, forse 500 ore, boh, adesso non lo so, mi ricordo così io. Beh, fatto sta che io non li ho mai oltrepassati. 500 ore non ci sono neanche in 2 mesi, perché se sono 24 ore al giorno, scusami, per 10 sarebbero, no, forse sì, 250, loro per 20, 500, cioè come se dovessi stare 20 giorni al telefono, 24 ore su 24, secondo me sono 500 minuti. Beh, comunque non li ho mai sorpassati i minuti che mi danno, quindi a me conviene un bel... Che compagnia è? Che quasi quasi devo girare io, dai. E c'è la team. C'ho team, praticamente avevamo acquistato dei telefoni e c'era questo pacco qua, capito? Ho capito. Ma pacco però, sono tre. Capito, che secondo me era più conveniente, ora come ora. Tu immaginati l'ultima bolletta della Wind, mi è arrivata a 250 euro, capito? E ma tu sei sempre al telefono, cazzo. Non è che per lavoro devo stare al telefono, non è che solo per diguglio, aspetta che finisco, faccio una cosa un attimo. Buonasera. Si vede. Ciao Antonio, ciao. Ciao Gianni. Cosa, ne hai voglia di vederti un alimentatore? No. Bene, io uso, allora ce lo butto. Ciao Massimiliano. Ciao, ciao, ciao. Massimiliano Magana. Cosa? L'inversione di polarità, che cosa può portare? Perché che componente può bruciare risulta? A parte il diodo, perché stiamo parlando di un alimentatore. Anche il cosmo si chiama, finale, se stesso. Sia il secondario che il primario può bruciare. L'alimentatore no. Che guarda, sui finali arriva la corrente, quindi il ponte di diodi sta funzionando, sta arrivando. Oh, non so cosa possa essere, comunque il trasformatore proprio non eroga più corrente. Il trasformatore non viene neanche. La scheda, cazzo. Oh, ah, poi ho cambiato anche quella schedina che c'è, quella scheda piccolina, me l'hanno data, l'ho cambiata, nulla. Ma cosa, impacchetta lì tutto e devi attirarsi la Q, in sugo, scusando la frase, ma hanno dato dei bidoni a 1000 persone con quelli alimentatori. Loro lo sanno e continuano a farlo, capito? Perché io mi sono lamentato 50 volte, cioè, questi chat. Riprendi un attimino, Martina, che sto finendo di fare una cosa, scusate. Loro lo sanno e continuano a spedirli, capito? Fanno un ignore con tutti, no, ma quegli alimentatori andavano benissimo, non si è mai lamentato nessuno, se... Infatti, io già non li sto più prendendo nulla, la tecnocomunicazione. A meno che sia qualcosa che vi possa interessare, ma se no non me la faccio più. Stiamo controllando ancora, pensavo funzionasse più, invece già sta funzionando. Hai aumentato la radio. Cosa ho aumentato? La radio, che mi ha fatto il sogno che ero in cuffia e avevo regolato il volume, diciamo l'avevo bilanciato bene. Anzi, come hai parlato mi hai assordato. No, anzi, sto parlando anche più lontano del solito, a mezzo metro. Raga, ma non sto accendendo le luci, scusa perché? Scusa tu anche. Ragazza la bolletta sia. E se non premi il tasto per accendere, è normale che non la accendano, cazzo. Ragazza sia la bolletta. Tu ti l'avessero pagata come la pago io, ma non è questo di bollette, è questo che non accendeva le luci perché l'avevo abbassato il tasso dell'alimentazione. Io come al solito sono sempre in fase di progettazione. Adesso mi sto progettando un'altra antenna, la cosiddetta Morgan, la conosci, ma si sa nominare? No, negativo. È un dipolo particolare, fa due bande di fare al dipolo. Però invece di essere due braccia dritte sono ogni braccio è ripiegato a mo' di chiocciola, praticamente se tu la guardi come se fosse una sorta di tre fili, invece è lo stesso filo che si richiude su se stesso e fa tre giri praticamente. E si chiama Morgan e fa due bande, la puoi fare per 80-40, 20-40-20 o se no 20-10, di multipli lavora. Quindi la corretta si potrebbe andare bene anche sulla 27. Sì, farebbe 22-11 farebbe. Bene. Capo. Falla, così sentiamo come va. Ma io me la sto facendo per gli 80 e per i 40. Vabbè. KK, magari capita che ti sento. Ah, lo di sicuro. No, io la mia idea è farmela 80, 40 e 20, 10. Farne due. Praticamente già con quelle copro tutto, più mi faccio le cubi quad monoelemento filari che fanno dai 20, voglio fare 20, 17, 15, 12 e 6 metri, vabbè 10 e 6 metri. Vabbè, le misure ce le hai. Beh, me ne sto calcolando a manina, come si faceva un tempo. Matita, righello e gomma da cancellare. Cioè, prima io vado su internet, me le guardo e le cucchi. Ah, così non c'è più questo. Io me le faccio personalizzate. Il gusto è proprio quello lì. Stare lì a farsi calcoli, sperimentare, vedere, te ne prendi altro, cioè per quello ci butto quelle 80-100 euro e ce l'ho già pronta. Cosa c'entra? Però io ho costruito delle antenne, per dire le antenne che avevo per la macchina, ne ho fatto una bellina, piccolina, che va molto bene, e mi sono tolto il barrasone di 2 metri. Vabbè, mi interessa sapere il perché. Perché funziona, perché si comporta in quel modo, perché farlo in un modo piuttosto che in un altro. Non mi interessa che vada bene, che mi sentano bene e che le stazionarie siano regolari. Quando c'è tutte queste prospettive, vabbè, tu la vedi con un punto di vista diverso. Ma io sono soddisfatto di quello che ho fatto, sono soddisfatto perché va bene. No, per carità, la cosa principale è che funzioni, che vada bene, che abbia buoni risultati. Poi, vabbè, c'è la curiosità a capire perché funziona, perché sì, in quel modo, non in un altro, il lobo di radiazione, piuttosto che le caratteristiche dell'antenna c'è stesso, i vari fattori, sono tutte cose che possono o non possono interessare. Magari tu vai più per l'aspetto pratico, nel senso, cioè anche io vado per l'aspetto pratico, nel senso che deve funzionare, sarà inutile stare lì a costruire nulla e che abbia la miglior rete, però mi interessa sapere anche perché si utilizza in un modo piuttosto che in un altro, perché si fanno dei calcoli e perché no, non in altri, perché in alcune antenne si devono usare determinate cose e in altre no. Sei un professionista, Massimiliano, io sono un profano. Mi accontento quando va bene. Quando va bene mi accontento. Grobbe. No, non sono professionista, sono curioso. I professionisti sono altri, quelli che gli ingegneri. Vabbè, la tua professione è quella, scusa. Non è la tua professione, è fare elettrotecnico. E vabbè, qua parliamo di altre cose. Qua stiamo parlando di lavori di ingegneria, che li lasciamo fare gli ingegneri. Io questo qua lo faccio per hobby, perché mi piace. Io come elettrotecnico posso fare l'installatore su ponte radio, fare delle tarature, riparare, ma la parte progettuale e di realizzazione, quella è solitamente un lavoro ingegneristico. Infatti io ho copiato le misure delle Ciminox, mettendo lo stile di un'altra antenna che è molto più grossa, e diciamo che mi regge anche bene il watt, dai. L'ho provata con vari watt e regge bene, quindi va abbastanza bene, dai. Rode, ci sei ancora? Rode morto. Intanto fuggi via. Adesso glielo dico, quando sei lontano lo deve dire sempre quel rix un attimino per me. Poi quando rientra sono rientrato. Maleducato, maleducato questo ragazzo. Paga. E vabbè. E quindi Massimiliano, se ti stai dedicando tutte queste antenne qua, dai. Vabbè, non è sbagliato. Il materiale è giusto, è giusto, il materiale è il classico filo elettrico, qualche pezzo di tubo, tubo per idraulico con in plastica, piuttosto che tubi a recapa per i tetti elettrici. Mi devo procurare delle piastre in teflon o roba simile per fare i supporti. E vabbè, non è una cosa difficile, là. Cioè vabbè, sono cose che arrendono. Ma il polo non si deteriora a furia di stare sul tetto, così, visto che è una guaina, là. Ma guarda, io conosco di poli che ci sono stati 20 anni sopra il tetto e non si, cioè, si sono deteriorati nel senso che hanno perso le loro caratteristiche, però funzionano, fino a quando non si rompono funzionano. E no, rovinati quando stai monta e smonta, quello sì, però se tu le lasci, io c'avevo un dipolo particolare che è chiamato G5RV, un dipolo un po' multibanda, poi ha una caratteristica perché c'ha una discesa scaletta, sembra una scaletta dei zuppi. È rimasto più di 8 anni, il filo sì, è diventato un po' più rigido, però non ha mai avuto problemi di altro genere. Sì, lo conosco perché l'ha avuto anche Tore di fronte a me, dai, la buona anima di Tore là. Quella è un'antenna a larga banda, siete che bisogna montarci l'accordatore remontato, insomma, diciamo tutto sommato. È un buon, cioè è un'antenna che se non hai tanto spazio ti permette di fare un po' tutto, ecco. È un palliativo, diciamo, delle antenne, però ripeto, a dispetto di non averne o di un classico dipolo che fa monobanda, quello ti fa un po' tutto e ci siamo, capito? Sì, beh, come tutte le antenne, chi più chi meno, col tempo tutto si deteriora. Ma un'antenna fatta col filo elettrico, diciamo, di quello che si compra normalmente da 2,5, ma diciamo che quei 10, 15, anche 20 anni secondo me li può fare se la lasci ferma e se non è eccessivamente tirata. Ma vengono di meglio quelli a V oppure quelli che metti in orizzontale? Beh, lì la cosa è puramente, diciamo, tecnica, nel senso che se io la metto a V invertita, se rispetto i gradi ho i classici 50 ohm e non ho bisogno del simmetrizzatore da mettere nel dipolo orizzontale, e là l'angolo di direzione cambia rispetto a quello orizzontale, capito? Diversamente se devo, faccio l'esempio, se ho uno spazio, che cosa, cioè ci sono tante situazioni. Io personalmente preferisco la V invertita, rende molto di più rispetto a orizzontale. Io avevo il dipolo degli 80 metri e nel vecchio QTH l'avevo montato V invertita e riuscivo andava alla grande. L'ho montato qua a orizzontale e non rende come, eppure qua sono più in alto, e non rende come ce l'avevo di là. Infatti voglio cambiarlo e metterlo a V invertita. Lo stesso dipolo puoi farlo a V invertita o orizzontale. Esatto, vedete che in orizzontale in teoria andrebbe messo il simmetrizzatore, un balon 1-1 per simmetrizzare, anche perché l'impedenza è diversa, non ci sono 50 ohm sul dipolo orizzontale, invece mettendolo a V invertita non ce n'è bisogno perché riesce a raggiungere i 50 ohm. Per dire, per la 27 quale potrebbe andare meglio, quella V invertita o quello orizzontale? Puoi vedere la V invertita per la 27. La V invertita, a parere mio, andrebbe meglio. Buona sapersi. Vabbè, poi ho avuto un'altra telefonata. Boh. E vabbè, Massimiliano, dati da fare, là. Tanto, ci vuole molto per farlo. Tempo ci vuole. Adesso io ho un quadernone che dove mi lo uso per fare progettare, insomma, lo uso qua per la stazione. Io se mi progetto tutto quanto, una volta che ho terminato, quando riesco ad avere un po' di tempo, inizio a fare la realizzazione. Una volta che ho finito la realizzazione, poi vado e monto tutto. E la fabbrica di Torre siamo a Cimilia? Assolutamente no, non ha tenuta. Anche a me. Quindi chi ce la sta facendo ascoltare ce la ascolti da solo. Ci piace a noi il calcio. Io a mia moglie non la stresso con le partite. Che ci sono uomini di casa che non li fanno vedere nulla per le partite. O io proprio. Io l'unica partita che guardo è quando gioca l'Italia. Sì, anche io, ma se dipende, secondo quello che sto facendo. Ci viene io che avrò buonanotte da me vado a letto, tanto non c'è più nessuno. Ci sentiamo. Aia, perché devi andare a pescare, si deve sempre quando per andare a pescare. No, io stavo scherzando. Domani devo andare presto a presto a farvi delle analisi. Ho capito. E io che c'è domani presto presto, dopo che accompagno il bambino a scuola, devo andare a Olbia. Devo farmi una passeggiata a Olbia per lavoro. Domani mi tocca. L'unica cosa buona è che domani non dovrebbe piovere, almeno quello. Infatti, se non ti avrebbe fatto con Maya tutto il viaggio. No, domani mi scarico, io c'ho sempre un gabinetto dove c'ho un apparato, un bibanda radiomateriale, con l'attacco a accendisigari, la base magnetica e l'antenna per le due UHF. E mi faccio compagnia con dei colleghi che anche loro lavorano faticamente girando in macchina e ci ritroviamo nei punti radio, almeno quello. Ma buona, a me un po' ti distrai. Io ti saluto con l'uomo e ti auguro un buon viaggio per domani e tante cose belle, tanti di là. Ciao ciao. Buonanotte, buonanotte. E Fabri. Buonanotte e buon corretti. Ciao Massimiliano. Non entra, no, non entra, ascolta sempre, ti stavo facendo le orecchie come quelle di coso, di Dumbo. Sai che gli ascoltoni che ci sono sempre. Tu devi parlare, devi essere dei nostri. Già sono dei vostri, che avevo i bambini che si stavano picchiando sino a poco fa. E poi io ci sono tutti i giorni a casa che sto mettendo a posto la cameretta dei bambini, che c'era un po' di umidità, era entrata acqua, quindi casino, cacchio, troppo lavoro, mamma mia. Hai fatto l'imbianchino? Ma per fare l'imbianchino magari, no, ho dovuto buttare giù dei pezzi di intonaco, poi devi intonaccare, poi ingessare, devo, perché è tutta gessata quella cameretta, certo, mi prendo delle cose alle volte, degli impegni che avevo a fare il condominio, la verità, ma aspettando, alla fine doveva venire anche un'altra persona, non c'è venuta, e alla fine ho detto, beh, adesso me la faccio. Sarà come me che c'ho quello di su che mi ha fatto una macchia nel soffitto. L'ho avvisato dall'anno scorso che doveva venire, dice non ti preoccupi che gli faccio fare da un muratore, siccome c'è un'impresa edile, gli mando un muratore, gli faccio fare tutto bene. Però lo sta ancora aspettando. E vuole qui, alla fine mi sono rotto le scatole. E me lo sto facendo, perché a me la verità, far entrare anche gente a casa un po' mi dà fastidio, perché fanno troppo casino, però ma io riesco a riservare un po' di più, capito? Idem. poi quando entrano muratori, mamma mia, quello che ci ha cambiato, che ci ha fatto il placcaggio, ma si è messo a tagliare le mattole dentro casa, mi ha fatto un tipo la giocatura da casa, mi sono incazzato come una belva, mia moglie ha detto ma quando mai? E lui ha detto di chiudere le porte e poi non so cosa stava facendo, cosa ne so io, sentivo rumori ma non so cosa stava facendo. Cambare dubbia. Tutta la polvere da tutte le parti. E detto ma lì, scusi, dove hai imparato a fare questo mestiere? Ma mi salti la porta, non si faccia più vedere, ti lascio mandare. Cioè, stavo tagliando le piastrelle dentro casa, a mola. E allora? Cabaretuga. Ne ho preso un altro, non è che non si dica, ma ha fatto il lavoro, ho fatto bene, tutto tanto. E cosa deve fare? Una ciappiglietta del genere, improvvisata. Lui dice che c'aveva una ditta, che qua, che là, me l'hanno consigliato un amico, anche lui, che dice, a me mi ha fatto il lavoro bene. E te l'ha fatto bene perché ti ha mandato gli operai che in quel momento magari ha trovato operai buoni. A me mi ha mandato, cioè l'ha fatto lui e ha fatto, diciamo, cagate, perché poi doveva togliere una presa perché doveva piastrellare. Ha detto, si guardi bene i contatti, se non, non riesce magari, poi magari io se devo andare a lavoro, si faccia un disegnino di fino, così non c'è bisogno, che si attacca la goccia, mia moglie mi ha detto che si è staccata la luce, è partito il contattore, cazzo qua, ha fatto un casino lei. Ma infatti io a far entrare il problema che, cioè, che mi piace magari anche farmele le cose, no? Però poi quando sei incasinato con il lavoro una cosa e l'altra, alla fine ti infugni, no? Perché c'è un sacco di cose da fare in questo periodo, ti infugni, però il fatto che riesco bene o male a fare tutto, capito? Con questa storia che c'ho mille rubi, proprio con le mani riesco a fare più o meno tutto, cazzo, so che resta. Con quella scusa che più o meno riesci a fare tutto, alla fine, cazzo, ti infogni, no, quello lo faccio io. Arrivo e dici, non ti preoccupare che te lo faccio, metti lì che te lo faccio io. Alla fine sei infognato, cazzo, non sai più dove uscirne, capito? Ti accumuli tutto quanto, è normale. È normale che sia così. Vabbè, Fabio. Diciamo che quando te lo fai tu sai almeno come lo fai. Quando vengono questi muratori improvvisati, magari tu vedi un'impresa, ti mandano muratori che non si viene a nuda e ti fanno un lavoro di cavolo e te lo devi sopportare perché magari non ci sei, loro se ne vanno e ti trovi il lavoro fatto così, come ho trovato io. Mi sono fatto cambiare il placcaggio e le mattonelle in bagno, ho cazzo detto l'ora di pranzo, ha messo le mattonelle nuove, ho detto l'ora di pranzo a mangiare e vedo tutte le mattonelle che avevano ribollito ed erano risalite su. Preso, l'ho telefonato, ma cioè chi l'ha fatto questo pavimento? L'ho fatto io, perché? Perché lei ha fatto male il massetto, a me mi stanno salendo tutte le mattonelle, stanno, no, già vengo io, adesso lo sistemo, ha cercato di sistemare, poi bisogna che chiama un pavimentista, là. Ha preso, le ha lavate tutte, ha sprecato materiale per niente, le ha lavate tutte quante dentro una, un coso, un secchio. E meno male che è riuscito perché era ancora fresco, se no guai, ci doveva cambiare anche le mattonette. Sì, ma anche quello, cazzo, c'è un muratore che non riesce a mettere un pavimento, cazzo. Credo che non faccio quello, faccio tutt'altro, ma proprio tutt'altro lavoro, faccio vedere come mi sono ristrutturato la casa al mare. Certo, se avevo un muratore, bappone un pavimento, c'è un muratore che non riesce a mettere un pavimento, ci vuole il pavimentista, ma vai, certo, il pavimentista magari te lo fa perfetto e te lo fa in poco tempo, però voglio dire, immaginati quanto era ciappino. Per me era un imprenditore improvvisato di quelli che non sanno fare nulla, prendono gli operai, li danno un tanto e si incassano i soldi, capito? Non sanno lavorare, poi se magari l'operaio è occupato si improvvisa lui e non sa fare il lavoro, è normale. E dico la gente lì sicuramente, ma un amico avevano fatto tutto il capannone, cosa, ho detto guarda, mi hanno fatto un bel lavoro, sì, però non lavoravano gli operai che prendeva, capito? Magari in quel momento ha trovato operai buoni e gli hanno fatto un bel lavoro. Arrivi da me, questo operaio arriva il primo giorno, butta giù tutto quanto l'intonaco. Il me che non si dica bravissimo, un anziano, questo giorno dopo non c'è più tornato. E ho detto, come non è venuto oggi l'operaio? Ma cosa ne dico? Come mai non è venuto? Io sto chiedendo io lì e lui lo chiede a me. Prende il telefono, non rispondeva, lo cerca, lo fa e ha scoperto che era entrato a lavorare in un cantiere a Usini, che lo pagava di più, gli ha detto che se n'era andato. e quindi lui si è trovato incasinato, capito? Già ha cominciato quello a essere un pagliaccio, perché questa gente qui sono pagliacci. Secondo me tu inizi un lavoro, butti tutte e quattro in placcaggio e poi cazzo, non ti fai più vedere. Cazzo, a voi già la biglievo, la tua immaginaci, che la trovo a ammazzare, non so, non lo so, io dico che ogni volta che ho dato in mano qualcosa al farmelo fare, il 90% delle volte sono rimasto deluso. Poi giustamente uno lo fa per lavoro, quindi magari deve fare veloce, però anche il lavoro va fatto bene, mi improvviso dei lavori da mettersi le mani in testa, quando mi capita di andare da alcuni amici, da quello vedo dei lavori, cazzo, mi metto le mani in testa e dico, ma è questo, ma chi te l'ha fatto? Cioè, anche perché no, cazzo, lo faccio io e lo faccio meglio. Vabbè, ci metto il doppio del tempo, ma lo faccio meglio. Ma no, io non faccio quel lavoro, ma non sto parlando solo di quello, anche gli altri lavori. Dico, cazzo, io non faccio quel lavoro, cazzo, uno che lo fa tutta la vita quel lavoro, cazzo, non può farlo peggio di me, che lo faccio una volta ogni tanto, mi capisci? Vuol dire che deve essere proprio ciappino ciappino. Allora io c'avevo un antibagno e poi c'era il bagno. Cosa ho fatto? Ho buttato giù ho tolto la porta e volevo buttare giù il pezzo del muro che manteneva la porta, no? E fare un'arcata per fare tutta una cosa unica, di modo che entrasse bene la luce, tanto c'era l'altra porta, non ci interessava che ci fosse l'antibagno, per far allargare un po' di più il bagno e nello stesso tempo far entrare più luce. Cosa hanno fatto? L'ho buttato giù il muro e l'hanno lasciato in grezzo, così senza intonaccare, senza nulla, mi sono dovuto mettere io e fargliela io l'arcata, capito? E adesso sono soddisfatto, l'hanno fatta tutto storto, mi sono incazzato da giù con tutti i vura, l'ho mandato via, malamente qua. Poi metto nel lavandino che se mi perdeva l'acqua, cazzo, perché abbiamo cambiato, abbiamo tolto il lavandino normale, abbiamo messo il mobiletto di legno con il lavabo e tutto qua. Cazzo, mi hanno fatto un casino nero. A pensarci mi mangio le palle a averli presi, quindi devo prendere qua. Sono venuti in 2 o 3 a farmi il preventivo, uno mi ha fatto il preventivo 900 euro e un altro 700 e lui mi ha fatto 500, ma se mi ha fatto il deputato che lo sabbia è da chi me l'ha fatto. Sì, infatti alla fine io il prezzo non lo guardo, la verità si dice, io se mi fido di una persona dico fammi il lavoro, punto. Perché io poi alla fine l'acqua dei lavori è difficile che chiami qualcuno, artigiano, io più che altro con la macchina, che, il carrozziere, io sono uno dei pochi artigiani che ancora che non mi faccio i lavori, il carrozziere pure, non so se hai visto in garage quelle moto, quelle me le faccio io, faccio vernice anche la mano, quindi voglio dire se arrivo dal carrozziere e gli porto la macchina, ma non la voglio fatta bene, io voglio la perfezione, se cosa vuole di più, cazzo, se non mi incatto per fare cazzo qualche piccolissimo difetto, allora me la faccio io, mi capisci? Non ti voglio dire, cazzo, se la porto al carrozziere perché voglio la perfezione, e se non trovo la perfezione, io ho un carrozziere, non trovo la perfezione, non c'è problema, gliela lascio e me la rifà, mi capisci? Cazzo, perché va fatta così? Minchia, fai a vedere certi lavori, cazzo, ti metti la mano in testa. Infatti io evito molte volte di chiamare qualcuno, anche se poi magari alla fine mi conviene anche chiamare qualcuno, perché mi tolgo un problema, una cosa. Però tanto lo so, ogni volta che chiamo qualcuno, dopo alla fine che bisticcia è un bisticcio, però rimango deluso e mi tocca. E cosa cazzo gli dici? Lo prendo e mi rifaccio il lavoro. Sì, poi anch'io sono un bucchignolo. Magari sono di quelli che rompono anche le palle quando vado a fare un lavoro e dico scusa ma ti sei dimenticato questo. Adesso puoi dire ho provato la macchina a carrozziere, ha smontato lo sportello per farlo, per riverniciare tutto quanto. E mi ha perso un pirillino che tappa la vite. uno non se ne frega, cioè non sta attento, non è una fottinuda. Adesso mettili tutti quanti dentro un contenitore dei pezzi, così poi ce li hai tutti. No, invece lui ha fatto, ha raminato, capito? La registratura l'ha fatta bene, però si perdono sempre in qualche particolare. Mi dà fastidio, amici, credi che mi dà fastidio che manchi quel cerchietto lì che tappa la vita. Sì, ma stava a dirglielo, quando lo ritirerebbe mancato, ma poi manca questo pezzo qui, quando adesso mi comprano e ordinamelo, cioè. No, me ne sono accorto dopo, Fabi, cioè io dietro, non è che mi si metta a guardare lo sportivo di dietro, me ne sono accorto perché mi sono girato, un giorno stavamo parlando con delle amiche che c'erano sedute dietro, mi sono girato, eravamo fermi, mi sono girato e ho visto che mancava questa fretta, oh, scusa un attimino, guarda a vedere se c'è poi un pirilino dentro la taschina che si è caduto dentro, no, non ce n'è. Ma guarda che sotto i tappetini nulla, non si trova. Non è così, cazzo, gli artigiani la maggior parte, sono pochi ormai quelli che lavorano bene, la maggior parte cazzo sono. Perché sono improvvisati, capito? Sono improvvisati, inutile. Ma Massimiliano l'abbiamo lasciato dietro, l'aveva fatto, se n'era, l'ha chiuso. No, Massimiliano c'è, Massimiliano. Ehi, ehi, già mi sto ascoltando, sono sempre con le gallo in mano, non ti preoccupare. Ha fatto parlare l'antenna, Massimiliano, sto scogitando un'antenna nuova. Cappa. Ah, io sono al punto che l'altro giorno sono andato a farmi l'equilibratura nella macchina e cavolo prendo gli ho detto già che ci siete mettetemi anche i pneumatici nuovi, poi mi mettono i pneumatici, mi cambiano anche la valvola perché ogni volta che cambiano i pneumatici cambiano anche le valvole e fatto sta che a un certo punto prende le cose prima di gonfiare, vedi come si mette i tappini in tasca, cazzo mi vuole ambulare due tappini bici, scusi ma non erano quelli i tappini che c'hanno nelle valvole, se permette cazzo mette quelli nuovi, non questi, uno di ferro e l'altro di plastica, cazzo a me mi danno così fastidio queste cose, fabbricano cazzate però mi dà fastidio. Quello di ferro o di plastica, quando ha messo quello di plastica accanto a quello di ferro, che deve dare un colpo in terra, sai cos'è quello? È il tappino. Vabbè, cosa ci deve fare? Io lo stesso, con sono pignolo sulle cose, sul poi se lo sai, quando i lavori te li sai fare, sei ancora più pignolo, perché gli difetti li vedi prima. Non lo so, ma è così, guarda io, ma infatti guarda io che mi ricordi, sarà da quando avevo in muratura, ormai da quando poi ristrutturavo, facevo, quindi voglio dire, l'ho fatto, no? Quindi ne ho preso appartamenti girati, quindi ne ho girato di queste bestie di muratori, cazzo minchia, cazzo, certi incazzi mi prendevo, e come ti giravi si sedevano, cazzo, oltretutto. E quindi meno male ne ho visto lavori, ma cazzo ora ne ho trovato una volta solo uno bravo, cazzo questo faceva di tutto, no, non faceva solo il muratore, faceva di tutto, era veloce e bravo, devo dire cazzo quanto lavorava bene, ma forse è l'unico che ho trovato, poi c'è un altro, lo stesso che lavora bene, che lavora in piccole imprese, lui cose per con uno o due operai, e anche questo lavora bene, era bravo, non gli puoi dire niente, anche se non è il massimo, però è bravo, però la maggior parte che ho trovato sono tutti cipitò, capito? E io sono maestro, cazzo maestro dei miei coglioni, cazzo maestro. Se è veramente improvvisato, perché pochi ce ne sono che sanno fare il loro lavoro e pochi ce ne sono che hanno la testa attaccata al collo lavorando, ci sono quelli che si nafutini, ce n'era uno per dire che la mia suocera gli ha fatto praticamente, aveva una casa di quelle che avevano l'andito, sai, e poi la sala con la porta, e invece poi ha fatto la sala aperta, quindi ha tolto tutto il muro, ha cambiato tutte le mattonelle, eccetera, eccetera. Questo qua dice che era di una pulizia unica, una pulizia dopo che finiva di lavorare prendeva la scopa, puliva, aveva lo straccetto, si puliva tutto, guarda, diceva, era una persona veramente squisita, anche quando si cambiava, si lasciava tutta la roba sua in ordine, la tribolatura di Bida era un paio di tutti botti di argosi, cioè quello che se n'è andato ci ha lasciato tutto, pantaloni, tuta, cappellino, tutto quanto ci ha lasciato a casa. Sì, ma sono così, ma io la maggior, io vado in pulito, io muratori puliti è difficile che ne trovi, sono tutti bucaccioni, cazzo, cioè se li lasci a casa, mica ti giri e ti trovi i pennelli dentro il lavoro, cazzo, c'è un appartamento nuovo, cazzo, bisognava rifare il bagno, cazzo, la cucina, quindi tutto nuovo, mai usato, cazzo, vai a vedere, minchia, ti ho dovuto prendere il lavabo, rifarlo lucidare tutto perché cazzo c'erano i pennelli dentro, cazzo, c'era un casino, aveva fatto, c'era il presente, ci butto tutto, cioè, cazzo, cioè, ma è possibile, cazzo, che ci butti i pennelli, cazzo, dentro un lavandino mai usato, ma vai a fanculo, cazzo. E prendi un baratto, lo metti da bagno in un baratto, non si fanno così. No, non rispettano nulla, molti non hanno coscienza lavorando e ti fanno lavori di cavolo, pretendono che li paghi. Perché dico, sì che si fanno pagare, fanno il lavoro come si deve, chi dice niente. Si è stato ricompensato per quello che è fatto e nessuno dice lì non ci piove perché se uno lavora ha diritto di essere pagato, però quando poi ti metti anche a fare casino... tutto sta lì, bisognerebbe, si perdono in una goccia d'acqua, poi tanti le rifiniture, le cose non ci mettono fritiglio, là. Già lo so, io non, non so cosa dirti proprio, non, cioè, io vado, di mio è difficile ormai, però io vado, mi capita di andare, cazzo, vedo certe rifiniture, certe cose, cazzo, cioè io metto la mano in testa, perché magari non sono fatte malissimo, ma ti rendi conto che, com'è mai possibile, cazzo, cioè, 20 anni, cazzo, che fai quel lavoro, mica, e non riesci a fare un lavoro fatto bene, cazzo, cioè si mette uno, principiante, cazzo, lo fa meglio di te, forse c'è qualcosa che non va, capito? Cioè è vero che magari non è possibile, ne ho visto, cazzo, io cagate, guarda, ne ho visto, ma non poche, un bel di più. Perché il principiante se si mette a farlo per casa sua lo farà più lento, più lentamente, però farà una cosa più perfetta, più ben fatta, normale. Un giorno che capita che scende al mare, cazzo, ti faccio vedere come l'ho ristrutturata e me l'ho presa per e ti gusto quello che ho fatto in quella casa. Ho iniziato a fare due lavori, poi cazzo, alla fine cazzo massetto, muri buttati, tutto il rinto a casa, pavimenti, impianti di riscaldamento, tutto fatto. Un inverno, me ne scendevo lì a tempo perso, un inverno me l'ho fatta, io devo avere qualche valvola di sfogo sempre, no? O una moto da restaurare, o una macchina, devo avere una valvola di sfogo, infatti quando viene qualcuno mi dice, fammi dove, metti lì, lo facciamo, racconti un paio, io sono anche contento, no? Perché io quando sono libero devo avere, durante il giorno magari in settimana, ho quella mezza mattina libera, ho due mattine libera, io voglio avere una valvola di sfogo, cioè io non lavoro praticamente manualmente, capito? Perché all'inizio io ho anche fatto proprio manualmente e mi piaceva, capito? Per poco me l'ho fatto, ma mi piaceva, poi manualmente non è che lavoro, che creo, non... E quindi ho necessità, perché a me sarebbe piaciuto fare l'artigiano, a me come lavoro sarebbe piaciuto fare l'artigiano di un qualcosa, che ne so, un falegname, un mestiere dove crei un qualcosa, cazzo, quello a me sarebbe piaciuto fare, capito? Invece faccio un lavoro completamente diverso e quindi ho necessità proprio di di sfogarmi, va bene, un po' di creatività e di sfogarmi. Quindi se un giorno sei venuto, l'hai visto il mio garagetto, no? Che ha tutte le sue cose, io me ne vado lì, cazzo il mio coso, tu qualcosa la devo fare, capito? È come una valvola di sfogo, non lo so. Ti piace il lavoro creativo, mentre invece il tuo lavoro magari più intellettuale che creativo, tu hai questa manualità e ti piace metterla in opera quando c'è il tempo libero, ma non è male, dai. C'è l'uno e l'altro, più di così si muore. Magari sì, ti avrebbe anche, diciamo, ti avrebbe giovato di più, nel senso che ti sarebbe piaciuto di più fare un lavoro manuale, ma diciamo che anche questo lavoro ti rende bene, in più puoi fare quello manuale come hobby, quindi c'è l'utile direttezza. Infatti alla fine mi piace quando ripeto, adesso ho chiamato un amico, ma tipo come facciamo, proprio mi diverte, capito? Ci sono periodi che sono affogato, che sono incasinato, e proprio questo è un periodo che adesso che sto facendo questo lavoro a casa, quindi sono incasinato, no? Però mi sono prestato, il vicino dice no, te lo faccio io, te ho un lavoretto, tanto infatti stasera stavo spruzzando col compressore un ripiano di un mobile, capito? Adesso ho smontato la cameretta del bambino, adesso la compro nuova perché l'ho ordinata, molto particolare, con due littini per i bambini, e c'è un armadio che mi dispiaceva perché mi hanno incurato, la verità, con quell'armadio l'ho pagato, un armadio, un piccolo prezzo, solo mi dice che sono guasto, una barca di sud, l'ho portato a casa, montato, il bambino, il grande, minchia, non senti tanto quel colpi, tu devi vedere come cazzo l'ha fatto questo mobile. Allora questo qua l'ho smontato e ovviamente non lo dubbio, perché è un mobile che ho pagato alla faccia dei soldi, me l'ho portato a casa di mamma, smontato, e le parti me le ho portate in garage, adesso diciamo che prossima settimana o metà settimana, quando ho tempo, quando per sfogarmi, me ne scendo giù, piano piano lo levico tutto quanto, lo riporto, lo rimetto e poi lo spruzzo, lo faccio, e poi lo metto via, perché quello lì probabilmente mi piacerò quando cambio casa, oppure se sopralevo su nelle camerette di su, quindi capito, anche quello lì, e anche quello, per esempio, a me mi diverte, non è che mi pesa, il fatto che so che ho questi tre ante, due pezzi, quattro pezzi, perché il caso che io lo devo preparare e fare, a me non mi pesa, per me è un divertimento, capito? Vabbè, se sono cose che ti piacciono, normale. Ma tu conosci tutti i passaggi che si fanno col legno, cosa si deve mettere sotto, come vernice, tutto qua? Sì, già mi arrangicchio, io mi arrangicchio bene col legno, già non c'è problema, ma un po' con tutto, ma sai cos'è, poi quando metto a fare un lavoro, poi molte volte so più o meno, però poi per approfondire ci metto poco. Prima mi andavo nei negozi, che tutte le schede tecniche le stampavo, oppure so con internet, devi fare ancora più veloce, fai, capito, quando devi andare il materiale particolare, però ti arrangi, non divertimento. Poi tu l'hai visto dove sono lì giù da mamma, no, l'hai visto, e lì sono mi metto lì una cosa all'altra, perché tu oggi ho tirato fuori, c'ho quel bel compressore da 100 litri, c'ho due o tre pistole proprio professionali, tanto di vedere come spruzzano quando affilo il ventaglio, tanto fanno dei lavori che sono magnifici. È bello avere le attrezzature e avere anche la manualità per fare i lavori, naturalmente. Inoltre avere le attrezzature se poi non ha l'esperienza, la manualità, ma se mi li avanti. Sì, tranquilli. Sto facendo i calcoli adesso. Sto facendo i calcoli per la cordatura. Io non so coinvolgere, ma si vedeva, perché ho capito che sta facendo qualcosa e forse sta ascoltando con piacere e magari non ha nemmeno voglia di chiacchierare. Buonasera. Ciao, Pompo. sto facendo i calcoli per costruire un Lamborghini 4080. Avanti, buonasera. Buonasera Massimiliano, buonasera a tutti e ben riscucciti anche Gianni. Ciao Antonio, mi hai sentito anche a te. E mi stavamo parlando dei lavori che si fa Fabrizio, non so se stavi ascoltando. E io già lo so, già stiamo ascoltando, ma di minuti però, non di più, è appassionato lui, quello che abita qua vicino a me, che c'ha 17 moto, c'ha ogni giorno nel fabbricato riversa. Popo, ma perché esci così basso? Perché sono il cameramento con la Grand Prix. Perché non puoi usare l'altra antenna se ho fatto il VI? No, no, non lo faccio più il VI, ho visto che la RAI si è sistemato tutto. Oggi si vede tutto fondo scalo del segnale. E una fino a ieri che c'erano dei problemi vicino a Monteoro, non si vedeva l'accidente, addirittura. Tutto a scarica era il segnale, oggi e domani se si sono sistemati, evidentemente qualcuno si è incazzato e gli altri non pagavano il canone, hanno messo tutto quanto a posto, visto che adesso si vede bene, perfetto, senza problemi, hai capito? Pagato. Famiglia allora. Comunque di qua non ne faccio più adesso, perché gli altri giorni c'era il segnale debole e creavo dei problemi io col cable e anche con la tapparecchia. Allora usavo, vabbè, io mi sono sistemato l'antenna, ho messo due antenne, una in canaletta per il 2009 e l'altra per il cable in laboratorio. E così sono più tranquillo. Almeno quando io voglio parlare alla cameraletta, quando mi sento un pochettino male, magari per dire, potrei andare a freddo nella camera, mi accendo la stufa qui e parlo da questo baracchino, tanto già esce bene. Allora, parlerà bene Alessio, non va più che bene. Fabri. Non già va bene, non arriva a forte colera, ma arriva uguale praticamente, una bella radio, bello e tutto, perché arriva con qualche di più in meno. E fa più la scelta della stessa. Sto usando un microfono del 6 nero, ho già, è uguale a Proxel, è preciso identico, fuori, e anche dietro, l'unica cosa che a posto di avere il secondo pulsante c'è un pulsantino che fa 5 tiro dell'uccellino. Giuro, me guarda, senti, aspetta. Allucina. Senti, che tu uccellino, ma dimmi tu, sì, mi dice, mandami ancora a fare a giocare con l'uccellino. Fabrizio. Dimmi, Antonio. Oh, che io sono Antonello, io sono Massimiliano. Dove posso trovare delle lastre di Teflon? Teflon, beh, mi sembra che cosa. Teflon da quanto? No, mi serve come supporto per il ripolo, per la Morgane. Quanto può essere? Da 3 mm penso che basta, 3, 4, boh, non so. Ma neanche, come se eccessivamente. Me ne servono una, anzi due 12x12 e 4 10x12. Allora aspetta un attimino, prendo un appunto che poi dono. Questa settimana non credo che ce la faccio perché sono, dovrei essere tutta la settimana a casa, che ho un po' di ferie arretrate, forse devo scendere per vedere e parlare un attimino di una determinata cosa, forse domani o dopo. E al limite posso guardare. Aspetta, prendo un pezzo di carro e mi prendo un appunto. Vabbè, c'è anche potevo acquistarlo, cioè non ti preoccupare. No, se acquistarlo, queste cose secondo me è un po' difficile anche trovarle, la verità. 3 mm così dovrei riuscire, credo. Adesso certo non sono più in quei reparti dove. Però il telefono da guarnizione ci dovrebbero essere da 3 mm, aspetta che prendo, se non chiedo e già me la dovrebbero procurare, aspetta che prendo un pezzo di carta e chiedo lui, poi ti faccio sapere se c'è la possibilità di averla. Ah vabbè, se ti interessa, ti, te la realizzi anche tu una Morgane, magari ti fai 80-40, così fai un po' di grande ascolto come si deve. Ok, poi vediamo, aspetta, non la penna, che così mi approfitto che mi scrivo un appunto mio, che sennò domani mi dimentico la metà delle cose quando esco di casa, aspetta. E via, riprendi Gianni. Ciao, pompo. Beh, Fabi, grazie, sono entrato da questa età qua, poi andiamo a vedere la racca. Pompo. Saluto di Massimiliano. C'è questo microfono, l'ho comprato, la verità è fa questo, io pensavo ci avesse dato qualcosa, invece c'è il cinguettio dell'uccellino. Sono nuovo, un del 6 è, un del 6 è Beer the Song, Song c'è scritto Mick, c'è Beer 20.048, mai sentito? Hai capito che microfono sto usando? Un microfono della Densei. E dove l'hai comprato lì? Non è che l'avevo comprato da Mario o coso? Ne aveva 4-5 e poi mi ha dato una, infatti mi ha dato una a me e io l'avevo dato a cosa, a Battistino per il coso, per il barattino che ci aveva dato lui, il Galaxy Pluto. Poi quando mi sono fatto restituire il Galaxy Pluto, il microfono me lo sono tenuto io perché l'ho amplificato nuovo. Ma l'ho usato, l'avevo, neanche una settimana addirittura ha funzionato quel baracchino. No, vabbè, è roba di vecchi tempi, quindi non è una roba che è questa attraverso. No, roba di vecchi tempi, ma è nuovo, ma è la stessa cosa del Proxel, tu guardi dietro, è precisa Proxel, c'è la monopolina del volume, posso avere l'altra monopolina del volume, c'è questo pulsantino dietro, io pensavo che fosse un eco, quello invece è un... fa 5 tiro di un uccellino, cazzo, boh. Ciucu, qua. Aspetta. Ah, eccolo qua, aspetta, dove premo? Mi sente, sì? Tutti molti siete. Yeah. Si sente quel ciucu, come fa? Grappa. C'è quel pesantino nero e basta, non c'è altro. Vabbè, là. Io vi saluto tutti cordialmente, ma è stata tutta nanna. C'è Fabrizio, c'è Massimiliano, c'è Alice, c'è tutti gli ascoltoni. Cura che ti per me, dai, ci sentiamo domani. Ciao, buonanotte, ciao. Ciao, grazie. Ciao, buonanotte, sentiamo. Ciao, Claudio, buonasera, per ascolti, scucci, torna. Buonanotte, ciao a tutti, buonanotte. Buonanotte, ciao Gianni da Più Roma. Ma che ti stai andando? Oh, ciao Claudio, ben sentito, ben sentito. Oh Massimiliano, rimani, non ti andare qua. Allora 3-4 mm mi hai detto. Dimmi il numero delle piastre e le misure. 2 12x12 e 4 12x10 centimetri naturalmente. Certo. Ascolta, il materiale ti serve proprio in teflon? No, vabbè, detto teflon perché siamo in teflon, un altro materiale dielettrico va benissimo, a parte che non sia conduttivo. Quindi vabbè, questo oppure materiale dielettrico. Ascolta, Plexiglas per caso. Scusa, c'è una signora che mi sta dicendo l'orario. Mi sta dicendo per caso? Plexiglas. Vabbè, anche Plexiglas. Sì, a Puglia. Va bene, per il Plexiglas probabilmente qualche lastra ce la dovrei avere anche in garage. Quindi quella vediamo, però se adesso chiedo quella lì, se no limite anche quella per un po' dovrei averne. Sì, vabbè, se sei interessato tu ti fai, perché io adesso perché ne sto costruendo due, una 80-40 e l'altra 20-10. Se te ne vuoi fare anche tu o te ne puoi fare solamente una, vedi tu. Quella 40-80 occupa in tutto 20 metri in lunghezza e quella 2010 la metà. Ma ce l'ascolto. Io lo faccio perché vado anche in trasmissione, si può usare anche in trasmissione, però per l'ascolto è perfetta. Io ho capito. E vabbè, nel limite la, dopo la vediamo, potrebbe anche interessarmi. Allora, se voi non mi sentite, sì? Ma sei basso di radio, ero abituato a sentirti bello forte, scompatto, invece sei scompatto. Cazzo, sto usando il cavo, non è che sto usando... Vabbè, è appena acceso, Facciamo di bianco per me. E ok, Claudio. 1, 2, 3, boh, mi sembra che non si basso di radio. Sono a 3, anche a 2, 2.5, 3. Com'è te la modulazione? A me sembra buona. E forse magari Massimiliano si sentito con l'altro barattino che mi aveva letto. Forse con i toni alti magari, invece questo c'è toni bassi, ecco perché ha cambiato qualcosa. No, ma c'è per me. C'è per me, io così. Anche lui cosa che ti ha fatto? Un uso, Non ho più sentito, però sta facendo il ruio. Era un frequente e poi è sparito. Positivo, va. Se va bene, se va bene. Come al solito senza dire niente. Prende, se ne fugge. Claudio. Hai sentato Claudio, salutate, se ne fugge anche lui. E ogni tanto capita. Entrano, fuggono, entrano. E anche io ultimamente sono impegnato in mille cose, quindi. Sono anche incapolato, non sono con la cosa, sono in questo periodo, quindi non sto accendendo la verità. Oggi giusto per sono entrato, devo avere due chiacchiere, infatti sono un pochettino qua in radio, adesso fa un po' un'altra chiacchieratina in cui mi guardo un po' in televisione, così mi stordisco, che come si è sentito che domani mattina, come mi sveglio, accompagno i bambini a scuola. C'ho la macchina che c'ho, il piano di carico che c'ho caricato un paio di cosucce, che le me le porto giù a Sant'Orsola e poi compro un po' di materiale e me ne torno a casa a lavorare. E capo anch'io a casa non è che ci sia più mai qua, perché la mattina prima me esco, poi vado a farmi dei lavori. In caso non c'è voglia di stare, sono stato tutto soccorso per questioni di... mi stavo rompendo le balle del trattore, mia madre, e quindi a un certo punto ho preso il creato punto a tutti e sono stati lì, quindi la mattina me vado a fare qualche lavoro in nero e poi la sera ne vado in giro. Qua dentro ceno, tranquillo, prendo e mi siedo l'uomo. A cena faccio a diventare esaurito, a pigliarmi l'esaurimento nervoso per gli altri. Allora faccio una faccia al centro storico, la stessa cosa. E vabbè, e così esce, fai qualcosa, no? E beh, mia madre siccome ha avuto un incidente che ha avuto, gira, può portarmi il cane a passeggio, io, provo a pisciare, fare la spesa a mia madre, mia fratella, aveva avuto, stavo di tutto, uscendo di te. Sono arrivato a un certo punto e non capivo più una fanculo e sono dovuto andare a pronto soccorso. Ho avuto attacco di panico e ho avuto un cedimento del penne. Ho preso i punti con la famiglia, adesso basta. A fanculo tutti, chi ha problemi si ritenga loro per i fatti suoi. Capito? A me non mi interessa più, non mi interessa più per nessuno. Qua non ce l'ho più a fare qualcosa, più io me ne esco. Chi ha le casse in casa si incazza, me l'ha fatto nulla. Ecco la ricetta che di panico. Perché non lo faccio quanto io, eccetera, eccetera, hai capito? Non fa così, no. Già due volte mi è venuto questa cosa qui e guarda, non ho mai avuto niente io. Già due volte mi viene questa roba qui e quindi adesso basta. Adesso ho preso per me, per la famiglia mia, non ho preso alle cose degli altri e sentire. Capito? Io sono una persona che purtroppo è sensibile di carattere e di tutto. E quindi sono fatto così. A un certo punto poi mi viene il panico capito? Pensi per quelle cose che ci sono e gli butti. Ho capito. Ti isoli e via. No, non è che mi isolo, esco, ne vado in giro, ne conosco un sacco di ragazze, conosco un sacco di altri, di amici in giro, c'è tutto di cui mi diverto. I soldi da fare non mancano e quindi sono tranquillo adesso, non voglio essere più dipendente di nessuno. E mi diverto. Non devo stare alle saluti con gli altri, a fare le cose, capito? E quindi ho fatto quella scelta. Ormai ho imparato a mandare tutti a fanculo, quando mi mettono le balle, quindi non la pubblicavo più. Cosa mi si incazza, arrangiati. È la migliore cosa che ci sia al mondo. Mai curarsi degli altri. Ho capito. Vabbè. Anche così va bene, l'importante è se ti fa stare bene. Così, fai così. Allora credo che sto bene, già 2 giorni che sto bene, grazie a Dio, non ho avuto bisogno di nessuno. Sono uscito ieri, sono uscito oggi, adesso esco anche domani, faccio dei giri, un po' di passeggiate, ho gli amici che ho di lì, mi diverto, passo l'ora e sono tranquillo. Già fai bene, c'è la gronda poco fa. Io so quello che lo sta ascoltando, poi è sparito, intende, non sa dire niente, a te immaginarci. Dove è stato un cappettazzo? Comunque, aspetta che spengo il telefono, insomma, che mi cerchi qualcuno mi rompa le balle a quest'ora. Anche tu che io quando ti chiamo a lavorare ti viene la cosa, no? A me quello che mi dà fastidio, sai cos'è più che altro? Che ti chiamano a lavorare per dire il giorno prima la mia attiva fate trovare l'altro, facciamo una giornata intera, poi quando ti chiedi i soldi guarda non ho ritirato, aspetta un paio di giorni, aspetta una settimana, hai capito? Così mi dà fastidio e quindi poi ti viene lo stress. E infatti non è un po' di nuovo, quando vedo i soldi in mano mi muovo adesso, se no me ne fa a casa. Che lo so, casino, almeno io c'è una persona che hanno già dato 2 assegni in cambio, capito? 2 assegni in cambio gli hanno già dato, con un dato di lavoro e con l'altro, sempre lavorando in nero, immaginate un po'. E devo abbigliare fitti, capito? Immaginate un po'. Lasciamo perdere. Sì, adesso la persona adesso gli affitti un casino a me. Adesso assegni non accettano più. Adesso vogliono sapere, in pratica si devono ritirare i contanti e dire, cioè in pratica devono risultare da quello che stai pagando. Purtroppo. Ormai gli assegni non servono più a niente. Non serve, io quando li faccio già sono coperti, non ti preoccupare. Cazzo, come si fa a fare una, se c'è uno che ha un'impresa che lavora, come cazzo fa a fare un assegno cambio? Ma assegni da 1000 euro, da 1100 euro, capito? Non scoperti. Cioè, io lo metto in banca, ma cosa facciamo? No, non ho capito cosa facciamo. Fa una cosa, protestalo. C'è il tipo a finito di lavorare, l'impresa non lavori più se ti protesta un assegno, capito? Se tu vai l'occasione oggi, se l'hai letto, c'è da dire, c'è uno che sta cercando personale, in pratica un'impresa, c'è scritto un'impresa cercando personale, anche non qualificata, stipendio fisso c'è scritto, quindi figurati tu, è strano, perché di solito se tu, ma questo non è qualificato, non puoi prendere a lavorare se non assicuri, giusto? Quindi è un'impresa che prende persone così, dico imprese che devi fare una billetta e poi se ti pagano ti pagano, se non ti pagano pazienza. Ma non credo, prova a telefonare a vedere cosa ti dicono. Ma non ci telefono nemmeno, è stata una presa per il culo quella, come l'occasione la stessa cosa. Quando telefoni sempre incappettati e so, cioè nell'occasione di oggi, se te la guardi è da ridere, perché non esiste, cioè un'impresa che chiama delle persone anche non qualificate, cioè se tu prendi un'impresa delle persone purtroppo se le assicuri devono essere qualificate, se no non possono lavorare, non puoi prendere persone in nero, perché si chiama un controllo, si chiamano tutto, il discorso è quello, invece questo è scritto così, quindi deve essere un'impresa fatta così, alla bella meglio, devono fare magari qualche billetta, e una volta che le cassate subito, se ti parla non ti parla, se non ti parla la pazienza. Pare strano a me, chissà cosa c'è sotto. Quindi è l'occasione di oggi, se ce l'hai, io ho pigliato stamattina per vedere se c'è qualche lavoro, non c'è più un tubo, prima c'era un sacco di roba. Adesso non c'è neanche, come ti posso dire, 15 persone che vogliono lavorare. C'è solo qualche azienda così che vuole fare qualche lavoro in Germania, questa impresa qui che ti ho detto, e poi lavora forse cercando personale. Però devi aver lavorato in quel campo, capito? Per poter vendere, già lo sai che cosa, contratti e cose del genere. Casino, non so dove andiamo a finire. Dove gli ho detto, capito, non so dove andiamo a finire. Da un giorno all'altro cerchiamo di... Anche chi sta lavorando da tanti anni come me, beh, io l'ho detto, vedrei che da un giorno all'altro, cazzo, ci troviamo nella bagna, cazzo, puttana miseria. Ma sempre pensare ai soldi, sta. No, Massimiliano, io non ci penso ai soldi, guarda, noi non ci conosciamo bene, ma se mi conoscessi un po' meglio, oppure conosci qualcuno che conosce bene a me, proprio di soldi non me ne frega niente, c'è una cosa che non gli ho mai dato importanza, l'importanza giusta che servono per campare e per vivere, però non sono né attaccato né niente, se no magari avrei, molte volte ci ho risparmiato un po' di più, cioè qualcuno, ecco, proprio non me ne frega niente, sì che si può fare, però il problema è che c'è sto lavorando, capito? C'ho da mantenere una famiglia, due bambini, e dico per il momento non c'è problema, ma da un giorno all'altro ti puoi trovare senza lavoro e ti devi nuovamente rimettere in discussione in una società dove non c'è niente da discutere, capito? Dammi che io sono in croppio. Guarda, io adesso sto contrattando per cercare di ritornare dipendente, perché non fa più. Non so, Massimiliano, io ho fatto tutte e due, sino all'altro giorno facevo tutte e due, capito? Quindi, e poi ho sempre vissuto in un ambiente di gente che, diciamo di partite di no? Quindi mia moglie stessa, lo stesso, nel commercio, quindi non i soldi li ho visti girare veramente, ma 15-20 anni fa, cioè io praticamente ho iniziato a lavorare giovane, in un posto tranquillo, appena diplomato, cioè proprio nulla a me, quindi poi ho iniziato a fare altro perché sono stato invogliato, sai, dagli amici che tutti lavoravano per i fatti loro, miei suoceri, cioè, quindi sono stato invogliato e ho fatto anche tante cose, ma ce n'era, capito? Ma mi ricordo che c'era gente che, cioè, ho visto quello che qualcuno tirava fuori in un mese, io, cioè in un giorno io non lo tiravo in un mese, no, se non in due mesi, secondo come gli girava, per dire, i soldi giravano, capito? Ma oggi quelle stesse persone, cioè io in confronto a loro sono diventato chissà chi, capito? Per dirgli come ha girato il mondo, che per il mio stipendio se lo mettevano in tasca in una giornata di lavoro, e oggi si sognerebbero di avere quello stipendio, averlo a disposizione ogni mese, per capire come è cambiata, capito, il mondo qua, il mondo. Lo so. Ma cosa sta nell'abbigliamento tua moglie? Sì, nell'abbigliamento. Spero che mia moglie già la conosce, perché mia moglie lavorava nell'abbigliamento. E già, sicuramente magari già si conoscono, e poi Vabbè, già le conoscerai anche tu sicuramente, dai, c'è una famiglia notta. E lì c'è molta crisi lo stesso, ma non poca, di più. Fabri. Dimmi. Io ho conosciuto, anzi conosciuto perché erano clienti di, sull'ultimo negozio quando lavoravo a Uruguay, era venuto Di Matteo, che figurati, c'erano 5 negozi, e tu già lo conosci, senz'altro, prendono abbigliamento, roba come si deve, cioè i jeans costavano 100.000 lire allora, per dire, c'erano 5 negozi, noi sono rimasto solamente uno in piedi, altri 5. Prima di essere con i 5 negozi il padre e i figli facevano il mercatino suo per fare i segni. Poi c'erano aperto i negozi, per dire, uno lì in questo abitato, non in questo abitato Emanuele, in Cerdicata Sassari, poi uno della Lamola, poi l'altro in invece delle Battiste c'era Beva, e uno pezzo di baracchini io. E poi l'altro paio di negozi mi aveva dato a parte, e stavano bene, dopodiché sono tutti quanti, è rimasto solamente il negozio del figlio, l'ultimo. Quello che c'è in Giardino Sassari quando sono attaccato al bar, pam pam, che è fallito. È rimasto solo quello. Lo so, ma è così. Tu hai detto quel numero, moltiplicalo per 2, è quello che loro stessi avevano. La mia moglie, dai, più o meno la famiglia, capito? Solo che cambiano le cose, c'è una decina, ce n'erano in giro i negozi, capito? Eppure più di uno, più di altro, ne sono rimasto un paio, forse più di un altro, cioè non ne vale più la pena, capito? Alla fine lavori per che cosa? Per pagare tasse, sempre tasse, affitti, puttanate, di tutto, tasse da tutte le parti, almeno se alla fine i tassi stanno sempre diminuendo, ma non te ne attuvai, cioè alla fine. E sai cosa c'è? Sono la roba cinese, tu scendi giù, come ho fatto io, sono andato 12 un paio di jeans, 2 una maglietta e altri 2 un coso, altri 5-6 un giubbotto. Ma la gente ha capito a fatto di leve allora i cinesi se vuole risparmiare. Non ci va più nei pantaloni per dire Levis oppure altre marche, non ci va più. Ormai ha capito la gente che proprio la cinese deve risparmiare se non si butti giù. Oppure per dire le scarpe è la stessa cosa, non è che compri le scarpe Nike o cosa del genere. Ormai vai dove ci sono i negozi, per dire tipo come è stato a me, c'erano le scarpe dello SPI, 9,90, sono andato e mi sono pigliate. E mi sono durate 1 anno e mezzo, erano belle, da ginnastica, rosse, belle. Figurati, anche se sono cinesi, tanto sono fatte tutte in Cina, già lo sai, quindi come la gente va lì. Compra i cinesi, roba cinese e basta, anche se la danno in negozi normali, per dire. Ormai la roba è a poco prezzo così, 2 anni, 1 anno e mezzo, non di più, 2 anni, poi ce la buttano. Non le compro più il pantalone da 100 euro, per dire, da 200 euro, non le compra più nessuno. Non c'è più la gente una volta, manco i soldi. Lo so, vabbè, non è proprio così, diciamo che chi compra il pantalone così lo compra sempre, invece di comprarne 4 se ne compra 1, ecco cosa succede, e chi prende del maglione di una certa cosa invece di comprarsene, se ne prende 1 e basta, capito, quindi il giro diminuisce, qualcuno è anche vero che è rimasto senza lavoro e quindi probabilmente va anche ai cinesi, però la storia è quella che non fa più avere oggi, tenere aperte attività commerciali non conviene più, c'è la grossa distribuzione, c'è la crisi, c'è tutto, cioè tu considera che mia moglie quanti saranno, sono 2, 3, 4, 5, 6, 7, saranno 8 dipendenti adesso, ma certo, cioè, prima forse non lo so quanti erano, erano stati, credo sono due negozi otto, prima erano fatti il conto una decina, certo quanti potevano essere, capito? E quelli sono tutti i posti di lavoro in meno che si stanno creando, e se tutto gira come deve girare probabilmente si diminuirà ancora, cioè non ce ne sono soldi, capito? Tutto quello che hai fatto in una vita te lo stai bruciando nel giro di pochi anni, capito? Va mai così. Guarda che in tutti i posti è così, anche il Fusaro non è più come prima. Prima prendeva un sacco di roba a Fusaro, adesso ormai è morto anche lui. Quindi la GBC è diventato una farmacia, e poi Melchioni è più morto che vivo. E poi c'è il problema di Grazi, campa solamente da di meno male, è stato fortunato che ci ha preso i dipendenti, gli ha fatto aprire, per dire, il corso di Staller, e quindi lui incappa la crisi, se no anche il corso sarebbe stato così in quelle condizioni. Perché c'è Sky campa, quando Sky morirà e non ci sarà più niente, anche loro se ne andranno a dare il culo, tu dico io. Perché faranno con la fine. Purtroppo, come tutte le cose, c'è il boom, dopodiché 5-6 anni, 10 anni, non tanto, forse anche 15 di benessere, dopodiché boom, tutto al fumo ormai. Vabbè, grazie. E cosa ci vuoi fare? E come andranno le cose, lasciamole andare. Ma meno male che per il momento da questa parte, io parlo alla mia famiglia, ci sono io, sperando che duri, perché anche qui non si sa mai come sta andando il tutto. L'ultima riunione abbiamo fatto su, le cose non sono così, come si può dire, rose e fiori come una volta, ma infatti l'ho detto, ma speriamo bene, perché da una parte, ti ripeto, c'è la moglie che, non lo so, dalla mia sembrerebbe a posto, ma già ci hanno messo un po' di dubbi, abbiamo fatto tutti i grafici, e siamo in caduta libera se alcune cose girano male, se non arriva quello ma quell'altro, e siamo in caduta libera. E quindi vaffanculo come andrà la cosa. Infatti io per il momento lo per il momento faccio quello che posso fare e non mi limito, non mi faccio prendere dalla paura. Quando sarà, me la spaccherò la testa, se mai sarà, e se sarà me la spaccherò. Adesso non mi posso limitare pensando a un domani, a un domani, a un domani, così si blocca del tutto, io credo, l'economia. Questa paura non sta facendo altro che bloccare il mercato. Avanti una serie. No, continuate che sto facendo un simmetrizzatore all'uncinetto, un attimo. Fretture, capito un po'. Via, cappa, così guarda, vabbè, neanche le cose a me convengono più a comprare, la verità, perché non c'è più mercato. Stamattina ho visto, se tu prendi l'occasione, c'è un sacco di roba sequestrata, ti giuro ce la vedo, ci sono due auto, una moto, bella di grossa cilindrata, alcuni appartamenti a poco prezzo. Io non ho mai visto una cosa del genere come oggi, guarda. Di roba sequestrata che non mi ricordo se è il 27 di dicembre o quando è l'asta. Ti giuro, guarda, non mai ho visto una cosa del genere, le fotografie e tutto. Se tu prendi l'occasione, guarda, c'è tanta di quella roba sequestrata che ci sarebbe. Addirittura c'è un negozio intero di pesca, c'è. Io sono il 14 di questo mese, la prima utile, oggi con te, sono arrivato oggi il 14 di questo mese, c'è un'asta, poi l'altra mi pare, adesso non mi ricordo le date, no, perché le seguivo, anche ci stavo in mezzo a queste cose, quindi le seguivo, però anche lì cioè, è una cosa impressionante, infatti io ci andavo a queste coste qui in tribunale e ho visto delle scene che tra la fine anche lì ho mangia perché ci sono sempre i soliti agenzie, le solite due o tre agenzie che sono lì, i pezzi migliori se li giocano, se li fanno, è una cosa da vedere, è una cosa da vedere, non si può descrivere. Io non ci sono mai andato, però già me lo immagino, ci sono sempre gli stessi caimani che, capito, prendono la roba, la roba buona. È come quando tu metti una casa in vendita per dire, no, no, per una casa in vendita, e tra l'altro arriva uno e quello, guarda, il fotocara per dire, mi dici 500 euro, me la dai 700 euro perché è a posto di essere bianca, è blu di colore. Oppure quello dice, guarda, c'è appena appena un graffio e cose del genere. Ci sono tanti di quei caimani, quelli che vogliono pigliati e sbattuti a terra, la verità. A uno, perché a me mi è capitato di vendere la mia macchina mia, che mi aveva regalato mio padre, dopo che è morto, e tu dice, tutti la macchina c'è vendita, sta anticipata con me, dice, cosa te ne fai? Sta vendendo 1500 euro, figurati, non ho polo. Una volta che arriva uno mi girava le balle, a fine del tempo fa la cosa, cerca di andare e girare le balle perché non è, per lui non bisogno di soldi, ho detto, perché non ho nessun bisogno. Ho detto che viene a dirmi, sono fatto nel genere, fa la cosa, ho detto, a me ho detto, la macchina posso mettere anche il fuoco, però te non te l'ho detto, la verità, 700 euro, 800 euro, se la vuoi 1500, sono più arrangi, ho detto. Poi se c'è anche il coso, lo prego me dentro, una guida, quello che è. Ma non quello che te lo trovo. Non so, in questo periodo c'è molta crisi, capito? Quindi diciamo che gli affari si possono fare, non molto ancora sugli appartamenti a Sassari, perché i prezzi non sono calati molto, la vendita è ferma, però i prezzi ancora non sono scesi e non so se scenderanno, vuol dire che non servono così tanti soldi, ed è strano questo. Fallimenti molti. È la cosa più triste che ce ne sono molti, lotto unico si chiama, perché quando sono 4, 5, 6, 7 lotti, 3 lotti, 7, 6 lotti, vuol dire che è un'aziendina che ha fallito, e quindi ci sono, che ne so, l'appartamento, la casa al mare, il capannone, due appartamentini che erano affittati. Però la cosa più triste è che ci sono molti lì, quindi non bisogna nemmeno avvicinarsi, ci sono molti che li vedi lotto unico, quello lotto unico è la famigliola che si è comprato la casa e che dopo 4, 5, 6, 7, 8, 10 anni non riescono più a pagare il mutuo perché ha perso il lavoro, capito? E l'altra la mettono all'asta. Quelle sono le cose più brutte, dai. Ho capito. No, io molti volte sto venendo la campagna perché non ce ne facciamo niente, ma ogni tanto viene qualcuno, chi 20.000, chi 30.000, e io dico, ma raccolta una cosa, tira le balle, perché cazzo 30.000 io ce l'avevo messo solamente per fare il uso della casa, per dire. Hai capito? Viene gente così, e che vuole fare subito agli altri, e quindi a uno ce lo stiamo mandando. Perché non è così, se uno viene come si deve, che gli interessa, ebbene, se no si dà anche in culo. La campagna rimane lì com'è, non me la frega proprio niente. Vengono solo gli struzzi, come si dice, gli avvoltoi. Tutto passato ce ne sono tanti avvoltoi, vogliono fare subito dagli altri. Lo so, vabbè, poi io è una legge di mercato, capito, più offerta c'è e più il prezzo scende, meno offerta c'è e più il prezzo sale, è normale, no? Offerta richiesta, è una legge di mercato più vecchia del cucco. Ma già c'ho pazienza, non me frega niente. Chi c'ha 70.000 o 80.000 euro vicino in campagna se la prende, se no si attacca al tram. Adesso devo mettere il cappello. Non voglio imbecilli, li scrivo. Chi viene con senza segni, in contanti, si presenta in banca, Allora, sì, se andate bene, solo dico, la campagna è male così, come li possiamo anche mettere fuoco, non frega niente. Scritto chiaro e tondo, per chi viene a girare le balle. Non deve neanche presentarsi, chi vuole venire, deve venire con i soldi in mano. Ti interessa? Ebbene, se non ti interessa, allora gira all'alco. Se lo metto a fuoco, non c'è problema. Ho capito, vabbè, è normale. Tu dici che ho chiuso tutto, che mi sto mezzo addormentando, che domani mi tocca lavoricchiare e non sono più abituato a lavorare, a fare questi tipi di lavoro, cazzo, pompo, mamma mia. Vabbè, però bisogna farlo, dai, devi passare un po' di tempo. Beh, un po' alle prossime, ben sentito, correti da parte mia. Ciao Massimiliano, ti faccio sapere per quella roba come te la procuro, dai. Buonanotte da parte mia. E buonanotte anche per me, dai, ci sentiamo. Vabbè, ti ringrazio per un momento, Fabri. Ciao, buonanotte, Pompo. Chiudo anch'io, Massimiliano Archimede. Buonanotte a tutti. Ciao Fabrizio, ci sentiamo, ciao, ma ci vediamo le prossime, buonanotte a tutti e due, al limite ci sentiamo domani, va? Se ci sentiamo, sono la dubito varie notte. Tanto è bella, buonanotte a tutti e due, buon lavoro, a domani.